più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Triste sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare, e la fine di un amore. Io sogno, nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, piangerà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel mio sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per cielo, le sue note nel mio cuore, sta segnando il mio. Ai miei domani son bagnate le mie.